Naturalmente potrei dire che presentare il professor Capitani è superfluo, e così è, ma desidererei sottolineare che su questo problema il professor Capitani è particolarmente preparato e vorrei dire positivamente orientato, perché è uno di quei temi nei quali le sue due qualità di storico e di studioso in genere, cioè il rigore della preparazione erudita da una parte e dall'altra l'impegno di interpretazione storica, vengono messi in una convergenza specifica, perché per il professor Capitani la letteratura e i problemi che sono alla base di questo tema, letteratura e problemi della canonistica, sono estremamente familiari, non solo, ma si alimentano di una quotidiana esperienza di ricerca e di studio che dai problemi dell'età gregoriana scendono fino ai momenti del 400. In questa linea di ricerca il professor Capitani ha avuto già in anni un po' lontani, ma ha avuto già occasione di misurarsi con i problemi dello scisma in una relazione giustamente riconosciuta nella sua importanza ad Alessandria, quando appunto affrontò per la prima volta il problema dell'origine dello scisma. Oggi, dopo anni di ulteriore ricerca e di ulteriore esperienza, egli ci darà le sue conclusioni, che come noi avremo occasione di vedere e come del resto risulta dal riassunto che io mi permetto di additare alla vostra attenzione, soprattutto per quanti di voi non siano di lingua italiana, che da un riassunto, come voi vedrete da questo riassunto, parte relativamente parlando di lontano, perché lo scisma del Barbarossa viene considerato dal professor Capitani non come un episodio, sia pure importante, di Federico Barbarossa, ma come un momento di particolare rilievo, certamente, ma di un problema più ampio, più generale e più vasto, qual è il problema del rapporto tra regnum e sacerdozio, tra papato ed impero, nel secolo undicesimo, dodicesimo soprattutto. Ma detto questo, non intendo rubarvi altro tempo, mi permetto solo di precisare che la relazione del professor Capitani sarà articolata, soprattutto a vantaggio dei non italiani, sarà articolata in due parti, all'incirca di eguale estensione di un tre quarti d'ora l'una, in due parti, con in mezzo una breve pausa per prendere un po' d'aria e un po' di fresco. Dopodiché la parola al professor Capitani. Ritengo assolutamente necessario formulare alcune premesse. Il mio intervento è concepito con carattere seminariale e si propone, nello spazio di tempo che mi è stato concesso con generosità, di rispondere allo scopo del seminario e nello stesso tempo di fornire quelle indicazioni essenziali degli orientamenti generali e della problematica che vi è connessa, come annunziato nel titolo della relazione. L'argomento è tale che già un bilancio di certi punti di arrivo, a patto che sia un bilancio critico, potrebbe rappresentare un modesto risultato, soprattutto tenendo conto della letteratura storica italiana più recente. Nella scelta dei testi, quindi, non ci saranno delle novità. Semmai, queste potranno scaturire dalla rilettura di fonti ben note e già in passato sottoposte al vaglio della storiografia. Quindi leggeremo soprattutto i testi editi nel primo volume delle Constitutiones dei Monumenta, Raevino, Brani di Gero di Reichsberg, e la pubblicistica sorta in occasione dello scisma, chiedendoci però sempre quale potesse essere l'ipotesi istituzionale operativa che poteva celare una topica tradizionale. Tengo a precisare che non farò riferimento, come potrebbe apparire ovvio, alla cosiddetta summa di Magister Rolandus, di Stroma per intenderci, non solo perché non se ne trarrebbe in relazione al tema che devo affrontare molto, ma soprattutto perché dopo l'articolo di John Noonan, Who was Rolandus, non sembra più possibile che il Rolandus canonista bolognese sia identificabile con il Rolandus Bandinelli, futuro Alessandro III. La quale circostanza, peraltro, nella dimensione e nell'ottica della nostra relazione, rafforza il punto di vista dal quale abbiamo guardato all'intera questione, che non può essere ridotta all'arbitrio di una personalità, ma al convergere di un complesso evolversi dottrinario, che, sia o non sia Alessandro III un canonista di Bologna, commentatore di Graziano, da identificare con il Magister Rolandus, proprio da Graziano avrebbe preso le mosse e in Bologna avrebbe avuto comunque, come riconosce lo stesso Noonan in altro articolo, il suo ovvio centro di dibattito. Desidero dire anche che la rilettura di un materiale documentario ben noto agli specialisti e in genere ai cultori dei rapporti tra papato e impero e della storia della Chiesa medievale non può non riuscire, se mai lo sarà, di qualche utilità ai giovani amici presenti, perché la problematica dello scisma alessandrino, protrattosi per circa un ventennio nel secolo XII, è inevitabilmente legata alle caratteristiche che la storiografia ha voluto riconoscere alla figura e all'azione del Barbarossa, assunta nella sua emblematicità come quella di una personalità di rottura, di sfida. Riprendo una espressione del Toynbee perché mi sembra particolarmente indicativa di una certa tendenza della storiografia consolidata sul grande svevo, di sfida, dicevo, alla storia. Una tendenza che, specialmente in riferimento all'argomento che tratteremo, ha avuto modo di dispiegarsi in tutti i suoi estremismi, in tutte le sue generalizzazioni e approssimazioni, con abbondante richiamo di elementi di una storia psicologica che oggi non dovrebbe avere diritto di cittadinanza. Devo appena ricordare che la complessa e poliedrica azione di Federico I, ben nota e ancora da illustrare nei singoli aspetti dai colleghi presenti, si è manifestata con effetti diversi a seconda degli ambiti di espressione, per dire che i giudizi che mi permetterò di formulare possono avere soltanto un riscontro nel settore che mi è stato riservato. Anche se potrà sembrare un truismo, la prima macroscopica conseguenza della assunzione emblematica del personaggio Barbarossa è stata l'invincibile propensione a stabilire per lui, in maniera più o meno esplicita, un processo, con esiti di assoluzione o di condanna, ma sempre con la preoccupazione quasi nostalgica di spiegare lo scisma non come fatto e politico e tecnico, insisto su questo aspetto di tecnicità, ma veramente, come già lo intesero i contemporanei, e Gero di Reichenberg in primo luogo, come scisma inter regnum et sacerdotium, come fatto di natura essenzialmente morale. Ora è evidente che con queste premesse la tendenza al processo è inevitabile, come è inevitabile che l'arco cronologico preso in considerazione sia, per quanto concerne quella che potremmo chiamare la base testimoniale del processo medesimo, fatalmente ristretto, almeno nei riguardi degli antecedenti. Non che la storiografia non abbia ritenuto di dover rifarsi a certi precedenti per capire gli eventi del 1159 e del 1160. Il saggio di Paolo Brezzi del 1940, per avere un riferimento storiografico italiano non recentissimo, è indicativo in tale senso. Ma per lo più, specie quella italiana, la storiografia italiana, è stata portata a concentrare il dibattimento sulle testimonianze contemporanee al regno di Federico I. Grosso modo, gli anni dal 1153 al 1160. Con tutti i meriti che proprio io riconobbi recensendo il lavoro in studi medievali e in una relazione tenuta ad Alessandria nel 1968, un esempio caratteristico di questo modo di far storiografia mi sembra il grosso volume di Michele Maccarrone, Papato e Impero, dalla elezione di Federico I alla morte di Adriano IV, apparso nel 1959, ma frutto di ricerche durate circa un ventennio. Libro degno di molta considerazione, come già notava in una recensione pur assai critica, apparsa nella Historische Zeitschrift del 1962, Peter Klassen. Ma libro attesi per la palese intenzione di giustificare ad ogni costo l'operato di Adriano IV, di piegare in qualche modo le fonti tradizionali ad una linea interpretativa non immune da forzature, dimentico quasi di collocare il grande dramma dei primi anni di Federico I in una prospettiva che doveva avere il suo punto di vista, a mio parere, situato ben più addietro dell'accordo di Costanza o della morte di Corrado III, perché quel dramma, l'espressione anni drammatici di Federico I e appunto di Peter Klassen, era in realtà il travaglio della presa di coscienza istituzionale di una società che si era iniziato almeno 100 anni prima della duplice elezione di Alessandro III e di Vittore IV. In questo senso, io credo che si possa affermare che l'opera in cui si trova affrontata con maggiore consapevolezza quello che per noi è appunto il vero problema di che cosa sia lo scisma per la Verfassung delle strutture di vertice della società medievale, in una dimensione di lungo periodo, è rappresentata dal libro di Robert Benson, The Bishop Elect, apparsa a Princeton nel 1968. Non penso di sopravvalutare i fatti istituzionali, ma desidero affermare ben chiaro che la tendenza a prescinderne, che per motivazioni diverse ha contraddistinto due generazioni di storici italiani, non consentirebbe mai di cogliere il senso storico effettivo del rapporto papato e impero nel suo effettivo collegamento con i problemi concreti della società medievale. Si potrà fare della storia della spiritualità, o della storia della politica, o anche una storia sociale, magari frantumata nell'atomizzazione di una documentazione minuziosa, ma difficilmente suscettibile di suggerire una vera sintesi. Il pregio, a mio sommesso avviso, del libro del Benson sta proprio nella scelta dell'oggetto di indagine, che non solo è un fatto istituzionale, ma è il fatto istituzionale per eccellenza, da cui è partita nel secolo XI la crisi, lo scisma all'interno delle strutture di fatto della società medievale occidentale, prima ancora che lo scisma interregnum e sacerdozio, e nei cui termini appunto istituzionali si definirà gradualmente, si esaspererà e si consumerà nel secolo XII. Cioè il fatto della costituzione della struttura cardine di quel tessuto sociale che è il vescovo. Potrà a prima vista apparire strano che io voglia richiamare queste cose proponendomi di esporre problemi e orientamenti in materia di scisma papale, ma non è soltanto l'ovvia connessione politica delle questioni dei regalia e delle investiture con gli atteggiamenti assunti da Federico I e da Alessandro III e da Vittore IV, ma l'appartenenza dello stesso scisma al medesimo processo di definizione dialettica delle istituzioni. Intendo dire che la volontà deliberata di arrivare allo scisma, che secondo me fu volontà deliberata di Alessandro III, non si sarebbe nemmeno esercitata o avrebbe preso altre strade. Non è nemmeno una banalizzazione, ma semplicemente un errore affermare che dietro le questioni istituzionali si celavano le grandi ambizioni politiche o le grandi ideologie, poiché l'unico mezzo con il quale quelle grandi ambizioni politiche o quelle grandi ideologie avevano la possibilità effettiva di incidere, come oggi si dice, sulla realtà concreta della società del tempo, era quello dello strumento istituzionale. Che questo sia uno degli elementi di progressiva desacralizzazione della società altomedievale, e lo è certamente, non ci soddisfa, se non verificato nel concreto dell'analisi storica, che è sempre analisi del particolare, anche perché noi non dobbiamo rimpiangere il Medioevo, ma capirlo. E teniamo presenti quali erano stati nei primi 60 anni del secolo XII i quadri concordati degli atti costitutivi del Vescovo e del Papa. Dico nei primi 60 anni perché, contrariamente a quanto comunemente si è soliti fare, prendere cioè le mosse dal Calixtinum del 1122, io ritengo che non si possa prescindere da Sutri e da Ponte Mammolo o il campo qui dicitur septem fratrum, e ritengo altresì che la linea politica degli imperatori da Enrico V a Lotario, a Corrado, a Federico I, si manifestò oggettivamente obbligata per questa questione da quanto in sede istituzionale era stato, e meglio ancora, non era stato concordato. Lotario, ripeto, non è Federico I. Ma parlare, come si è fatto anche di recente nella storiografia italiana, di cooperazione tra papato e impero nel periodo compreso tra Worms e la duplice elezione del 1159, non è, a mio parere, esatto. Quel periodo è stato solo la misura graduale della intraducibilità istituzionale di un supposto spirito di cooperazione. Al quale proposito, anche per i limiti di tempo e per i limiti della vostra pazienza, di cui non vorrei abusare, desidero subito dire che il sempre più accentuato dualismo e autonomo parallelismo che noi registriamo come esigenza da parte della cancelleria tedesca nel periodo preso in considerazione per quanto concerne l'affermazione dell'elezione autonoma dei sovrani germanici, col solo mantenimento, ancora per Lotario, della richiesta formale di una approbatio, di una sorta di confirmatio. Quella costante e opposta preoccupazione della Curia di mantenere comunque un legame dell'istituzione regia e imperiale all'istanza suprema, come a tacer d'altro prova la lettera del 17 maggio 1152 inviata da Eugenio III a Federico, in cui senza che ci fosse stata richiesta alcuna da parte dello svevo, il Papa diceva che la sua elezione benigno favore sedis apostolice approbamus, questo contestuale spiritualizzarsi del rapporto imperatore-papa e definirsi normativo, sempre più insistentemente richiesto dalla corte germanica per quanto concerne il rapporto tra papa, imperatore e vescovo, e penso in questo momento all'importante ricerca di Walter Heinemeier su beneficium non feudum sed bonum factum, tutto ciò, dicevo, pur facendosi come è giusto tutto il più ampio spazio alla figura di Federico e alle diverse personalità di Vibaldo e di Rainaldo di Dassel, rappresenta una pregiudiziale fondamentale per comprendere come non Federico, ma il fortissimo dislivello culturale istituzionale determinatosi tra papato e impero, proprio in quel periodo di apparente cooperazione, dopo il rientro del privilegium, dopo la sostanziale ammissione del valore costitutivo dell'episcopato che manteneva la concessione dei regalia col Calixtinum e con l'Innocenzianum, ed il contestuale recupero autonomo del papato, da parte del papato, della distinzione tra regalia e res ecclesiae, che si affaccia già al tempo di Pasquale II, portino ad un evento che per Federico I è lo scisma interregnum et sacerdotium, per il papato di Alessandro III è un fatto interno della Chiesa in cui l'imperatore si è indebitamente ingerito. Quanto ci proponiamo di indicare è in effetti questo, che lo scisma ebbe l'effetto di verificare due ordini di aporie istituzionali. Da un lato quella interna alla carta costituzionale, per così dire, della Chiesa romana, quale era uscita dalla cosiddetta riforma gregoriana. Dall'altro quella strettamente dipendente dalla prima della impossibilità di qualsiasi coordinamento di tipo carolingio o post-carolingio tra papato e impero che volesse poggiare in maniera sempre più consapevole sulla ratio iuris. Richiamare pertanto la funzionalità o la non funzionalità del sistema alla vigilia dello scisma è assolutamente necessario per spiegarsi l'atteggiamento che assunse, meglio, in buona parte, fu costretto ad assumere l'imperatore. Sondare lo spessore di certezze o di ambiguità che dietro concetti apparentemente tradizionali o ripetitivi si celava e condizione addirittura essenziale per l'intelligenza dei testi cui ci riferiremo. Non pare dubbio che per comprendere lo sviluppo istituzionale relativo agli atti costitutivi di un pontefice, quando parlo di atti costitutivi intendo le procedure che portano alla costituzione, cioè non solo o non esclusivamente la elezione, ma tutto il complesso per cui, complesso procedurale per cui un papa o un vescovo è tale. Dunque, non pare dubbio che per comprendere lo sviluppo istituzionale relativo agli atti costitutivi di un pontefice romano si debba considerare il periodo che va dal 1059 al 1179, dal decreto cioè di Niccolò II alla licet de vitanda del terzo sinodo lateranense di Alessandro III. Non credo che si debba discutere a questo proposito l'affermazione del Benson, per il quale questo sviluppo servì a enfatizzare, a sottolineare l'unicità della posizione del Papa rispetto ai vescovi dell'Occidente e della latinità cristiana, da che questa affermazione, in sé esattissima, sembra prescindere poi dalla constatazione che questo sviluppo ebbe determinati esiti soltanto perché si dovettero trovare degli strumenti di garanzia funzionale e istituzionale che rispondevano a precise istanze del processo storico e nella fattispecie del rapporto sempre più convulso tra episcopato e impero, tra papato e impero. Il decreto del 1059 aveva escogitato uno strumento che risentiva infatti in maniera ben precisa delle circostanze nelle quali era avvenuta l'elezione di Niccolò II. La serie di lacune che esso, come è noto, presentò alla concreta applicazione dei decenni successivi dimostrano ad abundantiam il suo carattere largamente occasionale, niente affatto programmatico come testo gregoriano. E mi permetto di rinviare alle considerazioni che in proposito ho fatto in almeno due saggi di alcuni anni or sono, circa i falsi ravennati e la dissertatio sinodalis. Almeno un punto comunque quel decreto aveva fissato in maniera precisa, e cioè la funzione garantistica, imprescindibilmente prioritaria, del corpo dei cardinali, pur con il privilegiamento della posizione dei cardinali vescovi, almeno in un primo momento. Ma tale funzione garantistica, che si affiancava vistosamente a quella del sovrano, pur senza cancellarla, era stata definita con riguardo alle situazioni puntuali che da sempre potevano verificarsi all'interno della città di Roma e partendo dal presupposto non dichiarato e tantomeno dimostrabile per il futuro, che quel corpo dei cardinali fosse compatto e concorde, magari anche dopo una lunga tractatio. A tacer d'altro, per non allargare i termini della relazione, la vicenda relativamente vicina ai fatti del 1159, dello scisma del 1130, ben presente anche a chi sarebbe intervenuto nella polemica dello scisma tra Alessandro e Vittore, aveva mostrato due cose: che poteva accadere benissimo che la concordia presupposta non si raggiungesse, e in secondo luogo che il prevalere di una parte sull'altra non era automaticamente garantito da un criterio preciso, quale poteva essere quello numerico, che sarebbe poi stato adottato dalla licet de vitanda, ma che anche prima, proprio in occasione dello scisma del 1159, sarebbe stato invocato da più parti, non necessariamente favorevoli ad Alessandro III, almeno in linea pregiudiziale. Noi dobbiamo oggettivamente riconoscere che di tutto ciò sembrano essersi resi conto gli ambienti intorno a Federico I. A meno di non voler fare della storia apologetica, e nemmeno recenti e ricordati tentativi sono giunti a tanto, la spaccatura del collegio cardinalizio rappresenta un problema istituzionale oltre che politico, e forse politico perché istituzionale per l'imperatore. È impossibile rigettare la testimonianza di quelle fonti che manifestano la reale perplessità degli ambienti imperiali di fronte allo scisma. La lettera di Federico I ai vescovi tedeschi, documento sempre citato, ma suscettibile, a mio avviso, di fornire ancora qualche nuova e forse preziosa indicazione, può anche confermare l'importanza del collegio cardinalizio come vuole l'Alberigo, ma in un senso ben diverso, nel contesto specifico in cui deve essere collocata per la comprensione dei nodi istituzionali che si ponevano all'imperatore di fronte allo scisma. Occorre infatti osservare, e non ci sembra che sia stato sinora fatto, che quella lettera contiene la constatazione del fallimento della funzionalità dell'istituzione principale del corpo cardinalizio. L'espressione columne immobiles universalis ecclesiae è certamente un'espressione topica, ma non può essere perciò sottovalutata, ove si consideri che il testo del decreto di elezione del 1059, proprio nella Renga, la richiama con riferimento alla sede apostolica: adeo ut columna dei viventis videretur nutare. E ove si ricordi che, come ha richiamato il Krause, espressioni quali columne sue ecclesie erano state riferite da Umberto di Silva Candida ai patriarcati, o con limitazione e specificazione a Pietro e a Giovanni totius ecclesie columne, o da Pier Damiani con l'esplicito ricordo del passo scritturale 1 Timoteo 3,15 alla Chiesa stessa, o addirittura a Ildebrando. A tacere di quel columna imperii che è riferito da Umberto all'imperatore. Non abbiamo certo condotto un'indagine semantica completa su questo tema, e forse sarebbe da fare, ma ci sembra indubbio che al di là dell'evidente carattere topico che ha l'espressione, essa sia adoperata con un riferimento preciso a una situazione di indiscussa certezza. Ora, nella lettera di Federico I, questa indiscussa certezza ci sembra essere venuta meno nella sua radice stessa, perché infatti i cardinali non sono più le columne immobiles universalis ecclesiae, ma hanno cercato ognuno sua propria, esattamente come i simoniaci venivano rimproverati di fare nella seconda metà dell'undecimo e nella prima metà del XII secolo dai riformatori, perché la funzione di garanzia che essi dovevano fornire proprio sulla base del decreto di elezione del 1059, che certamente gli ambienti della curia imperiale conoscevano bene, come ha notato il Benson e come noi stessi vedremo specialmente nel cosiddetto dialogus de pontificatus ante romane ecclesie, sia o non sia esso opera di Raevino, quella funzione di garanzia essi non l'avevano data. Né si obietti che in fondo nel secolo XII c'era stato il precedente dello scisma del 1130, in occasione del quale il corpo cardinalizio si era diviso in parti quasi uguali tra innocenziani e anacletiani. I dubbi sulle condizioni preliminari, sulle stesse vicende procedurali della doppia elezione del 1159, acquistavano, anche nella valutazione di un uomo deliberatamente al di sopra delle parti, come Gero, che non possiamo assolutamente liquidare come male informato, secondo certe suggestioni che ci provengono da Maccarrone, un peso ed una qualità completamente diversi se paragonati agli eventi del 1130, per i quali ritengo di poter rimandare, oltre al ben noto lavoro dello Schmale, alle conclusioni di Stanley Chodorov. Con tutto ciò, ripetiamo, proprio gli eventi del 1130 erano stati occasione di alcune meditazioni e considerazioni contrastanti circa le implicanze che il criterio corporativo dell'affidamento ai cardinali, sia pure con le distinzioni tra vescovi e altri, comportava. In primo luogo quello del giudizio che essi avrebbero potuto eventualmente esprimere nei riguardi del Papa stesso e magari in questioni di fede. Basteranno alcuni richiami, certuni a testi assai noti, altri a testi meno presenti nel dibattito storiografico, ma non meno significativi. Tra i primi, come non rammentare il passo relativo all'atteggiamento assunto al Concilio di Reims del 1148, presieduto da Eugenio III, presenti numerosi cardinali, che protestarono per l'eventualità di una soluzione del caso di Gilberto Porretano da parte del solo pontefice romano, con parole inequivoche. Scire debes quod a nobis, per quos tanquam per cardines universalis ecclesiae volvitur axis, ad regimento tius ecclesiae promotus, a privato universalis ecclesiae pater effectus? La posizione di giudici dei cardinali indistintamente viene addirittura esaltata, secondo una topica tradizionale, e sulla quale torneremo, al di sopra delle sedi patriarcali d'Oriente, di Alessandria o di Antiochia, i cui rappresentanti, nella ipotesi formulata dai cardinali riuniti a Reims, di un concilio che li vedesse compresenti, non potrebbero nihil definire firma stabilitate sine nostra auctoritate. Testi ben noti, si è detto, e che sono stati assunti per dimostrare che ormai primato e governo della Chiesa di Roma si fondavano su due elementi. Ma le cose erano ben lungi dall'essere così pacifiche, anche a prescindere dalle parole che San Bernardo ebbe a scrivere al Papa in proposito nel De Considerazione. Era fin troppo ovvio, infatti, che delle lacune di tipo istituzionale, di quelle cioè di una ecclesiologia funzionale, vorrei dire, rispetto ad una ecclesiologia esclusivamente ideologica, su cui molto ha insistito l'Alberigo, si sarebbe dovuto accorgere, e proprio nel vaglio della tradizione canonistica, chi come Graziano componeva intorno a quel giro di anni il suo decreto. È infatti singolare che i lavori italiani sul cardinalato e sulla collegialità non si sia posta quasi attenzione ai dicta di Graziano in fatto di poteri dei cardinali, onde converrà richiamarli nell'ambito della distinzio 79esima, capitolo 10, parte 6, e soprattutto della distinzio 63esima, capitolo 34. In quest'ultimo testo leggiamo che viene offerta una singolare interpretazione del decreto di Niccolò II, in quanto vi si afferma che «Electio summi pontificis non a cardinalibus tantum, immo etiam ab aliis religiosis clericis auctoritate Nicolai pape est facenda», in assoluta analogia con quanto avviene per i vescovi eletti, non a canonicis tantum, sed etiam ab aliis religiosis clericis, sicut in generali sinodo Innocenzi, e si tratta di Innocenzo II, pape Rome habita constitutum est. Ancora, nella distinzio 79esimo capitolo 10 parte 6, si ribadisce che l'elezio è opera, per quanto concerne il papa, dei cardinales et religiosi clerici. Electio summorum sacerdotum a cardinalibus et religiosis clericis debet fieri. Ora si deve badare che l'uso di electio da parte di Graziano ha sì il valore di espressione generale, con riferimento cioè a tutta una serie di atti che vedremo meglio nel seguito della relazione. Ma proprio perché ha tale valore di indicazione di una serie di atti non formalmente distinti, rende la funzione costitutiva dell'elezio vera e propria da parte dei cardinali meno rilevante, condizionandola anche in un unico elemento costitutivo dichiarativo a quello che è l'assenso dei clerici. Ci si deve chiedere perché. Graziano, nella stessa distinzio 79esima, al capitolo 8, rispondendo al quesito «Si duo temeritate concertantium ordinati fuerint, quis eorum alteri sit preferendus», aveva ricordato un rescritto di Onorio a Papa Bonifazio in cui l'imperatore dichiarava che non si poteva accettare l'elezione di nessuno dei due rivali, ma occorreva che in una nuova ordinazione fosse stato concordemente eletto chi doveva occupare la sede apostolica. Il commento di Graziano, come ricorda il Benson, era stato negativo quanto all'accettazione della applicazione automatica del rescritto imperiale, forse per il ricordo della casistica prevista dal decreto di Niccolò II. Se si fosse appurato che dei due uno fosse stato eletto in maniera apostatica anche nel caso che l'elezione canonica non si fosse potuta tenere a Roma per l'invasione della cattedra di Pietro. Ma il punto rimaneva che bisognava stabilire chi potesse valutare l'apostasia della ordinazione di uno dei due contendenti. E questo Graziano non lo aveva detto, anche se i primi commentatori, come noi apprendiamo da Stefano di Tournai, avevano tratto dalla esposizione di Graziano circa l'elezione del Papa e le applicazioni della exceptio spolii, causa terza, questione prima, capitolo sesto, la convinzione che cardinales eum locum obtinere in elezione summi pontificis, quem metropolitanus obtinet in elezione cuius libet episcopi, et ideo quod iudices esse posse ipsius. Stefano di Tournai, anni 60-70, non era di questo avviso, perché i cardinali tenent locum metropolitani in confirmazione electionis, non in potestate iudici. Ma si era in una fase che aveva ormai sperimentato tutte le conseguenze della mancata interpretazione autentica del decreto del 1059 per lo scisma del 1159. In questo punto non mi sentirei di seguire senza un commento il Benson, il quale sulla base dell'interpretazione grazianea della exceptio spolii, che non si può invocare in caso di occupatio per violentiam della sede apostolica, in quanto non esiste chi possa occupare legittimamente l'ufficio di giudice della causa, afferma: Graziano credeva che nessun giudice possa essere competente a decidere una elezione papale contestata. In realtà, stando al dictum grazianeo, non alle interpretazioni contro le quali si sarebbe battuto Stefano di Tournai, che potevano certamente essere state influenzate dallo stallo dottrinale istituzionale del 1159, il caso di mancata definizione di una delle cause maiores e di conseguente impossibilità di applicazione dell'exceptio spolii, e cioè expoliati prius sunt presencialiter restituendi ante quam ad causam sint vocandi, si riferisce ad una procedura di giudizio da esprimere su di un vescovo. Su di un papa, ineo tantum casu intelligitur, quo apostolica sedes per violentiam occupato, quo casu iudex non invenitur cuius officio ille apostaticus possit excludi. Ebbene, qui è perlomeno palese la contraddizione in cui si dibatte lo stesso Graziano, che non spiega come faccia a definire apostaticus, secondo la formula del 1059, il Papa eletto per violenza e affermare nello stesso tempo che non vi è un giudice competente, tanto più che egli aveva, come si è notato, respinto l'interpretazione del rescritto di Onorio come applicabile al caso di duplice e contrastata elezione pontificia. Quindi per Graziano, a parte la contraddizione rilevata, non solo non possono essere i cardinali i giudici, ma si manifesta la prima larga falla nel sistema garantistico che il decreto del 1059 sembrava dovesse proporre. Tanto più che veniva meno anche quella riserva, ispirata sempre alla stessa preoccupazione, rappresentata dalla formula «salvo debito onore e reverenzia», riferita al sovrano laico. Ed è allora evidente che tutto il sistema canonistico, che appunto sino a Graziano si era rivolto alla casistica della elezione, delle competenze e dei poteri del Papa, costruendo un abbozzo di procedura per analogia con quanto era previsto per il Vescovo, entra in crisi, senza però lasciare intravedere soluzioni adeguate. Così come la lotta delle investiture aveva posto in crisi a sua volta il complesso di norme e consuetudini che avevano regolato in qualche maniera i rapporti tra episcopato e potere imperiale e sovrano, e che era stato in sostanza riaffermato sia nel Calixtinum del 1122 sia nell'Innocenzianum del 1133. Ma ormai né il Calixtinum né l'Innocenzianum sembrava dovessero più avere validità per la Chiesa di Roma, o perlomeno per quelle forze che cercavano un diverso coordinamento della società ecclesiastica in specie e di quella della cristianità in genere. E al limite, poiché sappiamo che un diverso coordinamento lo cercava anche Federico, un margine di compromesso e di manovra poteva, per le questioni più scottanti, come erano quelle dei regalia e delle resse ecclesie, su cui certamente in maniera ben più decisa nei fatti, ancor più che nella stessa teoria, i diritti riconosciuti in quelli che abbiamo chiamato, tra virgolette, i quadri concordati tra papato e impero, erano e sempre sarebbero stati sostenuti a Federico I, un margine di compromesso, dicevo, esclusa la Germania, si sarebbe potuto raggiungere in Italia. Ma l'ironica battuta attribuita al Barbarossa, in relazione alla discussa prestazione dell'Hominium da parte dei vescovi italiani, qui tibi et regi, qui tibi et possessioni, non per nulla potrebbe essere assunta come la dimostrazione per absurdum della irrealizzabilità di un coordinamento istituzionale parallelo ed autonomo tra i due ordinamenti normativi, quello laico e quello ecclesiastico, che la razionalità stessa insita in ogni sistema giuridico sembrava dovesse imporre sin dai tempi di Sutri e di Ponte Marmo. Il punto era stato, per i vescovi, il valore che potesse avere la presenza regis, Gero, notoriamente fautore di un effettivo dualismo, scriveva, dopo l'approvazione del Calixtinum, Deo gratias, absque regis presentia, fiunt electiones episcoporum. Una presenza che era ineliminabile per la concessione dei regalia, cioè per la reale disponibilità di un potere politico e amministrativo che era la forza dell'episcopato e poteva essere la forza della Chiesa di Roma, ove quella disponibilità politica e amministrativa non fosse dipesa da un placet del sovrano. Elementi teorici si potrà dire, ma anche a prescindere che i pochi sondaggi che sono stati condotti per stabilire sino a qual punto in effetti le procedure previste dal Calixtinum e rinnovate dall'Innocenziano fossero seguite hanno dato esiti interessanti e molte indicazioni si potranno come sempre trovare nel citato lavoro del Benson, rimane indubitabile che un sovrano che avesse voluto farle osservare, cioè che avesse avuto una determinata linea politica, aveva a disposizione uno strumento normativo. Ogni variazione, come quella della diversa procedura notoriamente seguita in Germania e in Italia circa il conferimento dei regali a prima o 6 mesi dopo la consacrazione, ogni distinzione, come quella a cui si è già accennato e avrebbe visto lo sdegno di Corrado di Salisburgo contro l'applicazione dell'innocenzianum e di cui si dirà ancora, tra regalia e res ecclesiae, vanno soltanto intese nella logica di una dialettica del processo istituzionale di separazione di due ordinamenti, la cui consapevolezza cresce parallelamente sul piano normativo, ma con una grande vischiosità rappresentata dai residui sovrastrutturali in senso veramente peggiorativo, in questo caso di carattere monistico, unitario. In fondo è questo il problematicizzarsi dottrinario di quel cardine ideologico che era il procedere per analogia nelle questioni relative alle strutture portanti della società medievale occidentale, papato, impero, episcopato. Un problematicizzarsi che nasce dalla concretezza di una casistica, ripetiamo, ma ne crea un'altra, come deve essere ogni vero processo dialettico nella storia. Come non riconoscere, appunto, un esempio di grande rilievo di quanto abbiamo testé affermato, proprio nella circostanza che negli anni compresi tra Besançon e lo scisma del 1159, Rufino elabori, sia pure sommariamente, tutta una costruzione istituzionale sul concetto di confirmarsi, sia in relazione ai poteri del vescovo, sia soprattutto al rapporto tra Papa e Imperatore? Cercheremo di riassumere brevemente l'analisi che ne è stata fatta e di trarne poi le nostre autonome conclusioni in merito alla questione più specificamente attinente allo scisma. Nel riprendere verbatim una decretale di Leone I, sulla quale torneremo più diffusamente fra poco per un'altra questione, concernente l'elezione vescovile, Rufino aggiungeva agli elementi del testo leonino «vota civium, testimonium populorum, arbitrium honoratorum, vel religiosorum, electio clericorum» un quinto fattore, la confirmatio metropolitani et coepiscoporum. Questo concetto, che certo rimanda in maniera molto generale e generica inizialmente all'idea di assensus, che se si vuole esprime un aspetto della norma della electio per clerum et populum e che in nessun modo si sovrappone o si sostituisce alla consecratio, che rimane atto costitutivo autonoma, sta a significare il conseguimento della pienezza dei poteri di giurisdizione di un vescovo eletto, senza alcun riferimento, si comprende, ai poteri sacramentali che gli venivano dati per il tramite della consecrazione. In altre parole, nello schema procedurale leonino su cui si esercitava la glossa di Rufino, la confirmatio era il culmine dell'assensus, quello che in moltissimi casi, prima e dopo la lotta delle investiture e senza riferimento ai regalia, veniva espresso dal sovrano, assegno che ancora negli anni 1177-1179 un altro decretista, Simone di Bisignano, glossava. Confirmatio electionis ad principem pertinet, sicut in non nullis provincis observatur. Ora, poiché la confirmatio conferiva la possibilità della administratio delle res ecclesiae, poiché, come vedremo, all'epoca in cui Rufino componeva la sua summa, si era fatta strada, almeno in certi ambienti ecclesiastici, la netta convinzione che tra gli onorati, di cui al testo leonino, non potessero e non dovessero essere compresi i sovrani, e l'altra per cui comunque l'assenso degli onorati medesimi non aveva la stessa portata costitutiva per l'elezio, badate, degli altri elementi, l'aggiunta della glossa rufiniana era, al momento della massima tensione tra Federico e Adriano IV, una emarginazione nettissima maturata negli ambienti bolognesi dei discepoli di Graziano di una qualsiasi funzionalità costitutiva delle lezioni da parte del sovrano laico, regalia a parte. Ma non devo io richiamare quale incertezza regnasse circa la definizione e l'accettazione della definizione, qualsiasi essa fosse, del confine tra regalia e res ecclesia. Ma non è tutto. Concepita in tal modo, la confirmatio rappresentava, avant la lettre, si intende, qui chiedo scusa ai colleghi giuristi presenti, è solo una anticipazione per far intendere meglio, la confirmatio rappresentava una sorta di ius in re per la pienezza dell'ufficio episcopale, cioè per la consecrazione. Il mantenerla distinta dalla electio cleri, che sarebbe poi stata configurata come un mero ius ad rem petendam, conferiva a quella parte del clero che doveva fornirla una indubbia superiorità. E allora questo spiega perché, come abbiamo rilevato, Stefano di Tournai, che era sulla linea di Rufino, polemizzasse negli anni 60 del secolo XII con i primi commentatori di Graziano, dovendo significativamente precisare che inc habes quod electus papa ante consecrationem habet potestatem regendi romanam ecclesiam et omnes facultates disponendi. A differenza dei vescovi che ex sola electione approbantur, ex confirmatione electionis etiam premissam potestatem consecuntur. Era un'anticipazione della dottrina che in pochi anni si sarebbe meglio definita e in virtù della quale il Papa solo con l'elezio ottiene la confirmatio simultaneamente e quindi una assoluta superiorità giurisdizionale su tutta la Chiesa. E rimando alla Summa Tractaturus, alla Summa et Est Scienum e via dicendo. Ma era soprattutto la sottrazione normativamente definita dell'eletto Papa ad ogni sia pure immediatamente successiva confirmatio. Dobbiamo tenerlo presente per due rispetti. Per un verso, perché in tal modo nessun margine viene lasciato ad ogni ipotesi di impedimento amministrativo al Papa electus, nemmeno da parte del corpo cardinalizio, deputato alla funzione della consacrazione, ma privo dell'analogia col metropolita, una volta avvenuta l'elezione, per quel che concerne la confirmazione. L'elezione avvenuta conferisce una pienezza di poteri di amministrazio totale, una completa giurisdizione. Si dibatté a lungo negli anni successivi, 70 e 80, nelle varie summe, se il Papa eletto, che fosse vescovo prima della elezione al pontificato romano, potest omnia que potest postea, summa et est scendum, glossa al distinzio 23, capitolo 1. In taluni casi la risposta era stata affermativa, perché in sostanza la stessa consecratio non avrebbe conferito al Papa alcunché in più nell'ambito della potestas ordinis, essendo egli già un vescovo. Per un altro verso, proprio per Rufino, la teoria della confirmatio suggeriva una ben diversa impostazione dei rapporti tra papato e impero, meglio tra la persona del papa e quella dell'imperatore. È noto, non credo di dover ripetere anche questo, che assumendo per buona l'attribuzione al decreto del 1059 di una frase di Pier Damiani che trovava nel decretum di Graziano, Rufino intese in senso temporale proprio il potere delle chiavi terreni simul et celestis imperii, affidato a Pietro e ai suoi successori. Tralasciando ogni altra implicazione in proposito, per la quale basterà rimandare ai vari lavori dello Stickler, del Kempf, del Maccarrone, osserviamo che possedendo l'amministrazio delle cose terrene, anche all'atto della sola elezione, si badi, dopo quanto si è detto, diverse dalle res ecclesie, il Papa eletto si trova ad essere nei riguardi dell'imperatore come un vescovo nei riguardi del suo economus. Si recupera in maniera paradossale l'unità del mondo istituzionale medievale, sempre ricorrendo ad una serie di analogie rovesciate. Lo ius ad rem petendam che ha il re di Germania nei riguardi della corona imperiale diviene ius in re allorché summus itaque patriarca quod autoritatem ius habet terreni imperii eo scilicet modo quia primum sua autoritate imperatorem in terreno regno consecrando confirma. Ma si badi al tipo di analogia che Rufino negli anni immediatamente dopo Besançon e nel momento dello scisma propone. La consecrazione dell'imperatore, cioè la sua incoronazione, si risolve in una confirmatio dello ius administrandi sicut in economo, da che quell'administratio dipende da un'autoritas che l'imperatore non ha, ma ha il Papa. Non per nulla il magister bolognese non parla affatto dell'origine del potere sovrano laico. A questo punto siamo sufficientemente illuminati circa i termini istituzionali che si proponevano alla vigilia del Concilio di Parigi. Pochi elementi, crediamo, possono illuminare quella che abbiamo chiamato la autonomia funzionale, ricercata nel coordinamento delle istituzioni ecclesiastiche da parte di Alessandro, come la questione del rifiuto di recarsi al Concilio di Parigi. Dobbiamo subito dire in proposito che la questione relativa al suo rifiuto fu avvertita realmente come ben più grave di una reticenza o di una mancata pronta sconfessione della congiura di Anagni e proprio da quel Ghero che, secondo un nostro illustre studioso, sarebbe, pur dopo qualche fatica ed esitazione, riuscito a scoprire l'orditura propagandistica che aveva dato credito e certezza alla coniurazione. Io affermo che questa presentazione dell'atteggiamento di Ghero è falsa. Ghero, anche nell'unico passo che da quello studioso è stato invocato, del De Investigazione Anticristi, capitolo 53, ha sempre richiesto con insistenza che fosse reperita da parte di Alessandro e dei suoi fautori l'occasione di un'assise in cui si potesse, dal maggior numero possibile di partecipanti, vagliare senza possibilità di dubbio l'esattezza della notizia della coniurazione. Ghero non si esprime apertamente, né vuole farlo, perché non è questo che gli prema di più sulla veridicità dell'accusa della coniurazione, ma accoglie senza ombra di dubbio l'accusa che egli stesso presenta come proveniente dalla parte vittorina di una consapevole sottrazione al giudizio da parte di Alessandro, non determinata dalle ragioni che i canoni avrebbero giustificato della mancanza di sicurezza o della mancanza di libertà di parola, ma quia sibi sufficiens in se visa est et que cum de omnibus haberet judicare concilii subire non deberet judicium. Tutto ciò appare, al di là della questione della veridicità della coniurazio, come il punto nodale della ripulsa alessandrina. tanto nel De Investigazione, capitoli dal 53 al 56, quindi non è solo un indugiare occasionale quello di ieri, composto nella prima redazione probabilmente subito dopo il Concilio di Pavia e in ogni caso a noi pervenuto nella redazione degli anni 1961-62, quanto nell'Opusculum Cardinalis del periodo 66-67, quando Vittorio era morto, Pasquale III era stato imposto come successore e Ghero era ormai certamente dalla parte di Alessandro. La recentissima minuta esposizione analitica della Lazzarino del Grosso non lascia adito a dubbi e gliene va data lode. Anche se la sua preoccupazione sembra piuttosto essere quella di recuperare una credibilità politica a Ghero, problema quindi diverso dal nostro. E ritorniamo all'autosufficienza e autonomia funzionale perseguita da Alessandro III nel coordinamento intorno al vertice della persona del pontefice romano di tutto il nuovo sistema ecclesiastico che si andava costruendo. Rileggiamo il testo che Bosone ha riferito come risposta di Alessandro all'invito di recarsi a Pavia. Non è solo l'accusa mossa a Federico di aver convocato sine conscientia romani pontifici, un concilio che, come vedremo, è una di quelle tipiche argomentazioni polemiche ribaltabili. Occorreva appunto vedere se ci fosse un Romanus Pontifex. Ma la notevole ritrattazione che con l'occasione Alessandro compie dei privilegia concessi con il Calixtinum e con l'Innocenzianum in merito al valore della presenza regis. Riferisce infatti Bosone che Alessandro avrebbe risposto all'invito di Federico. Nam cum nec in minoribus ecclesiis advocati earum et seculares principes vocationes disceptationes ad decisiones uius modi causarum sibi aut curiis suis usurpent set suorum metropolitanorum seu apostolice sedis semper notitiam ac definitionem expectent divina videretur animadversione dignissimum et ab omni ecclesia tanto duius arguendum quanto amplius ad universalis ecclesiae periculum redundare. Orbene, anche volendo assumere questa testimonianza come propria di un ambiente, più che come espressione diretta del pensiero del Papa, soprattutto dopo quanto si è letto nell'articolo del Lune, che non si sa se sia il canonista Rolando, è impossibile non riconoscervi il netto ripudio di uno degli aspetti più rilevanti del Calixtino, sia pure limitatamente alla Germania, ma senza nessuna dichiarazione né a favore né a contro, né contro. Per i territori dell'Italia settentrionale, il Calixtinum affidava al sovrano metropolitani et comprovinciali un consiglio vel judicio, espressione famosa che ha dato luogo anche a importanti ricerche storiografiche, quindi consiglio vel judicio, non, come dice Alessandro, un ordine, notizia o una decisione definitiva. Era stata data con il Calixtinum all'imperatore la facoltà di offrire l'assenso e l'aiuto, assensum et auxilium prebeas, alla sanior pars, in un caso di elezione contrastata di un vescovo. Nell'Innocenzianum, come è noto, non si scendeva a dettagli, ma la presenza regis nel contesto costitutivo dell'episcopato era chiaramente ripetuta, sempre per la Germania, con la riaffermazione della procedura tradizionale, elezio, investitura dei regalia, consecrazione. Ma c'è di più, e si tratta di un punto che non mi pare sia stato valorizzato. Il testo di Bosone e Alessandro richiama una questione che negli anni 30 del XII secolo era stata proprio dopo che Lotario aveva ottenuto la concessione dell'Innocenzianum al centro del dibattito sulle elezioni vescovili, intendo dire quella degli onorati, su cui appunto il Benson, senza pensare di collegarla con lo scisma del 1159 e con gli scritti fioriti intorno ad esso, ha molto opportunamente insistito. Proprio sulla base di un testo di Leone I, precedentemente ricordato e rapidamente diffusosi tra la fine del secolo XI e la metà del secolo XII, nella procedura di elezione vescovile, come abbiamo visto, era richiesta l'arbitrium o testimonium honoratorum, personaggi laici eminenti, tra i quali una parte preponderante avevano in qualche caso assunto gli avvocati ecclesi. In proposito era sorta una disputa in Germania circa l'opportunità che questi onorati in genere e gli avvocati in modo specifico avessero un peso determinante nella elezione. È noto che Corrado di Salisburgo aveva composto proprio negli anni dell'Innocenziano un trattato, ricordato anche da Gero di Reichsberg, per chiedersi an ad illos tales honoratos pertinuerit aliquid de spiritualium rerum disposizione et deo in rebus divinis ministrantium elezione, e aveva gridato allo scandalo perché advocatorum nova presumptio qui sibi nescio quid iuris adjudicant in elegendis episcopis quasi non possit eligi episcopus nisi consensia. Elemento per noi importante della disputa che si accese tra Corrado e Norberto di Magdeburgo era il fatto che al di là della stessa questione dei regalia, la cui investitura restava chiaramente un irrinunciabile privilegio costitutivo dell'episcopato per l'imperatore, in certi ambienti ecclesiastici tedeschi, di cui Norberto era tipico rappresentante, si rimetteva in discussione attraverso la questione degli onorati la stessa partecipazione diretta del sovrano alla elezione, ancor prima dell'investitura dei regali. Apprendiamo infatti che Norberto voluerat inter honoratus cuiusque civitatis etiam potestativos principes vel reges rei publici amministratores esse comprehensus. Gero, che riferisce la tesi di Norberto per respingerla, fa una netta distinzione tra l'assensus che può e deve essere richiesto agli onorati cuiusque civitatis e la presenza per quell'assenso alla elezione dei detentori del potere, principi, re, sovrani in genere. E nega decisamente che l'elezione possa essere cassata in caso di mancato assenso degli onorati medesimi. Possiamo chiederci ora se il richiamo che il testo di Bosone Alessandro, possiamo chiederci se il richiamo che il testo di Bosone Alessandro fa alla questione degli avvocati sia pertinente e sia collegato con l'altra questione circa l'appartenenza dei principes agli onorati sorta due decenni prima in Germania e che, come vedremo nel Dialogus de Pontificatus Sancte Romanae Ecclesiae e in certi testi di Magister Rufinus, era ben lungi dall'essere stata risolta una volta per tutte. Il richiamo del testo di Alessandro agli avvocati delle chiese minori ha per me un carattere nettamente polemico, ma molto indicativo. Anche perché, come proprio qui a Trento alcuni anni fa ha dimostrato il professor Riedmann, l'importanza degli avvocati andava diminuendo in questo periodo. Federico, nell'invito rivolto sia a Rolando sia ad Ottaviano, noi non possediamo il testo mandato ad Ottaviano, ma sembra indubbio che i due testi fossero mandati a tutte e due le parti, non aveva richiamato un suo diritto a partecipare alle elezioni che egli ritenesse di averlo e un altro e completamente diverso discorso. Aveva constatato che l'elezione era contrastata e aveva chiesto che un'assise di ecclesiastici al cui giudizio egli si sarebbe rimesso, e trasparente il ricordo del Calixtinum, giudicasse quale fosse l'Assanior Pars. Non era stato invocato assolutamente l'argomento degli onorati nella lettera invitatoria ad Alessandro e a Vittorio, pur potendosi ricordare la presenza a Roma dei legati imperiali che avevano certamente avuto contatti con Ottaviano e con la sua parte. Su di un piano procedurale, quindi, il richiamo di Alessandro III non sarebbe assolutamente pertinente, perché Federico non aveva invocato quel difetto di procedura per invalidare l'elezione di Alessandro o di Vittorio. Ma evidentemente il Bandinelli pensava ad altro. L'equiparazione di ogni intervento dell'imperatore nella questione alla pretesa già denunciata da Ghero degli avvocati che si ritenevano onorati in maniera specifica non solo respinge ogni azione per analogia sulla base del Calixtinum che potesse presumere di avere Federico I, ma a prescindere da ogni altra considerazione parte dal presupposto che quella di Alessandro III sia stata l'unica elezione canonicamente valida secondo una procedura che nessun advocatus avrebbe potuto impugnare. Non è senza significato che all'inizio del Responsum Alexandri il Papa insista su di una terminologia che per la sua tradizionalità ha rischiato e rischia di perdere pregnanza di significato, se non riportata, come abbiamo cercato di fare, nel suo contesto pubblicistico istituzionale proprio. Nos reconnoscimus Domnum Imperatorem ex collato sibi debito dignitatis advocatum sacrosante Romane Ecclesiae Defensore. L'advocatus Ecclesiae Romane quindi non può godere di diritti maggiori di quelli che la disputa degli onorati aveva voluto concedere agli avvocati 20 anni prima. Credo che sia la prima volta che si noti questa estrema tensione formale nella pubblicistica dello scisma alessandrino. È ovviamente una illazione, quella di Alessandro, assolutamente estranea all'argomentazione che parrebbe assai simile a quella di Ghero. Questi infatti aveva pur dichiarato nel commentario al Salmo 64esimo: «Nam spiritales et religiosi viri abent consulere, canonici eligere, populus petere, onorati assentire». Qui tamen, si consiglia religiosorum patrum et elezione clericorum, ad petitione populi, concorrente in unum negant, non propter hoc erit irrita elezio, si alias est canonica. Ma evidentemente, nel caso di Alessandro III e Vittorio IV, quella concordia, a parte la canonicità, non c'era stata, e questo spiega l'insistenza di Ghero per il concilio e il suo appoggio a Federico I per la convocazione pavese, e spiega però il rifiuto di Alessandro III. Anche a non voler sottolineare, e non si può non farlo, la circostanza che almeno in questo scambio preliminare di documenti, di apertura dello scisma, non viene in alcun modo invocata la serie di precedenti storici che avevano pur visto una presenza regis in concilii in cui il pontefice romano se l'ha dovuto giustificare. Il ricordo di Ghero, come noto, è molto preciso e non si limita a casi remoti, tanto nel Dei delle investigazioni anticristi, quanto nell'Opusculum Cardinalis. Così noi troviamo un'interpretazione completamente coerente di un topos della pubblicistica tra X e XII secolo, quello dei cosiddetti gesta Marcellini Pato, il cui ricordo era perfino confluito nella proposizione seconda del Dictatus di Avranches, presentandosi come impossibilità di sottoporre il Papa a giudizio nemmeno nel caso celebre dell'errore in materia di fede. Ebbene, Marcellinus Papa cum tamquam summus pontifex a nemine judicaretur, sed sibimet ipsi relinqueretur judicandus, ore dampnavit proprium factum suo. In tempi più recenti non aveva apertamente sconfessato il proprio operato a Sutri, Papa Pasquale II, e così come Pasquale II aveva promesso ad Enrico V ciò che non poteva promettere, sotto la minaccia della prigionia, non era avvenuto lo stesso con Papa Adriano, con senzienti cardinali a Benevento, per la minaccia di Guglielmo I di Sicilia. E non potrebbero allora i cardinali, vera o falsa che sia la notizia di quel patto con i Normanni, procedere a giudicare se stessi, sive negando, sive giustificando, sive mutando, dando così una certezza che, e si badi che Gero scrive nel 1166-67, non esiste ancora. Un'altra osservazione. Con questa procedura Gero giunge a proporre un sottile superamento della difficoltà di arrivare in qualche modo a un giudizio che coinvolga il Papa. Autogiudicatisi i cardinali, che si dice siano stati i fautori della presunta congiura, si vel iustum, vel nullum esse constare, aut si non bene gestum, discretio apostolica mutaret, causaeque tocius veritatem litteris, vel nuncis publicaret, multum facere pro nobis, vel pacem reformando, vel ad passiones confortando. È un'estrema via d'uscita che, indipendentemente dalla sua adesione ad Alessandro, Gero ritiene che debba essere lasciata allo stesso. E non solo perché così tutti si convincerebbero, ma perché nel definirsi sempre più netto della posizione giuridico formale della giurisdizione del Papa eletto, si richiede un vincolo che non sciolga del tutto la sua persona dal consorzio dei fedeli. Erano pensieri che non albergavano solo nella mente del preposito di Reichsberg, se ancora qualche anno dopo, intorno al 1171, nel De Vera Pace, opera di ambiente romano, e adesso attentamente ristudiato da Jürgen Peterson, dopo l'edizione del Birmar, si potevano scrivere queste significative parole. Verum quid Romanus Pontifex nisi membrum ecclesiae, etiam si prime sedis episcopus vel Papa Universalis Ecclesiae appelletur? Nonne et tu similiter es membrum ecclesiae? Si tratta di affermazioni di grande rilievo, proprio perché si rintracciano tanti anni dopo lo scoppio dello scisma, perché prescindono completamente da ogni infrastruttura giuridica e non possono essere realmente collegate con precisi filoni ereticali alla luce dello studio più in alto ricordato. Ma da anni ormai i presupposti culturali di Alessandro III erano ben diversi. Come è stato notato dal Pacot, pur in un contesto storiografico generale che io non sottoscrivo, è sintomatico che la lettera scritta proprio dopo la sua contrastata elezione a Gerardo di Bologna, ai canonici e ai dottori di quello studium, si apra con il rinvio implicito, ma in dubbio, alla distinzione XII, capitolo primo, in cui attraverso il ricordo di un testo pseudo-isidoriano, la tradizionale concezione organicistica della Chiesa accentua al massimo la cefalizzazione. Eterna et incommutabilis providentiae conditoris sanctam et immaculatam ecclesia, a sue fundationis exordio, ea ratione voluit et ordine gubernari, ut unus ei pastor et institutor existeret, cui universi ecclesiarum prelati absque repugnantia subiacerent, et membra tamquam suo capiti coerentia, ei se mirabili quadam unitate coniungerent, et ab ipso nullatelus dissiderent. Appena da notare, peraltro, che quella cefalizzazione è, rispetto al testo di Graziano, ancora più accentuata. Il canonista si era limitato ad affermare non decet a capite membra dissidere, sed iuxta scripture testimonium omnia membra sequante. A che cosa dunque poteva ridursi il collegamento con il consorzio dei fedeli, laici o ecclesiastici che essi fossero? Qual era la sostanza dell'ipotesi organicistica che comunque consentiva ad Alessandro III di parlare di unità della Chiesa? E sino a quel punto, sempre limitandosi alle prime battute di apertura dello scisma, i presupposti dottrinali e canonistici che abbiamo individuato per chi, come lo stesso Pontefice, si muoveva sulla linea di una rifondazione della rappresentazione della società medievale, si trovarono nella necessità di mediare una tradizione. Quando noi, come si è già osservato, leggiamo che è inconcepibile per un papa come Alessandro III accettare la convocazione di un concilio sine conscientia Romani Pontificis, non ci troviamo di fronte al rifiuto di ogni ipotesi che il Benson ha chiamato protoconciliare. Voglio dire che non c'è soltanto questo. Né ci troviamo dinanzi a un atteggiamento completamente accettato anche all'interno delle correnti canonistiche cui, come si è visto, molto doveva sul piano dottrinale la condotta di Rolando Manninelli. In un mondo in cui si chiedeva ragione di tutte le procedure, sarebbe stato assurdo credere che la posizione di rifiuto di Alessandro non si articolasse o tentasse di articolarsi sul presupposto di certe interpretazioni. Non è un caso che Graziano fosse stato così insistente circa il rescritto di Onorio a Bonifazio, che è ricordato, come si è visto, nella Distinzio 79, ma ancor più direttamente affrontato in un dictum all'inizio della Distinzio 96 e da un altro all'inizio della successiva 97. È pur vero che il rescritto di Onorio non ha valore se uno dei due eletti è apostato, ma è anche vero che non solum de ordinibus, sed de necessiam de rebus ecclesiasticis, laicis legitur aliquando attributa disponendi facultas. A meno che, ed è l'unica eccezione, non vi sia un invito specifico da parte della Chiesa o del Papa. Honorius vero Augustus, non sua auctoritate, dice Graziano, sed beato Bonifazio supplicante, ecclesiastice quieti consulere et concertantium ambitionem punire curarit. La conscienza Romani Pontificis è proprio la volontà che abbia il Papa di provocare un intervento del sovrano. Orbene tale volontà non c'era stata da parte di Alessandro III, che a differenza dei suoi stessi elettori che avevano scritto a Federico perché prendesse quei provvedimenti, non aveva assolutamente coinvolto nella questione l'imperatore. Non si può fare a meno di notare che proprio nel testo della lettera dei cardinali fautori di Alessandro, perlomeno così come ci è stata tramandata, si individuano richiami formali che ci riportano al dictum grazianeo testé ricordato. Rogamus atque instantius supplicamus, ut matrem vestram sanctam romanam ecclesiam diligatis et honoretis, et ad pacem et tranquillitatem ipsius, quibus modis imperialem convenit excellentiam intendatis. Modis imperialem convenit excellentiam intendatis. Quieti consulere, pacem et tranquillitatem intendere. Sono espressioni sinonimiche. E a chi voglia ricordarsi dei passi che i fautori sia di Innocenzo II sia di Anacleto II avevano compiuto presso Lotario, come ci riferisce la cosiddetta enciclica di Anacleto Papa Damnato del giugno 1133, l'ipotesi di una procedura analoga anche nel caso di Alessandro e di Vittore e quindi di una sostanziale esattezza dell'atteggiamento di Federico potrebbe apparire abbastanza convincente. Ma non è così. Né per il Papa Alessandro né per l'imperatore Federico. Non per il Papa Alessandro, perché si tratta di una mancata conscienza Romani Pontificis, non di un mancato intervento della Chiesa romana. Ancora una volta si ha l'impressione che in questa fase dello scisma è proprio perché il cardinalato non aveva assolto ai suoi compiti garantistici nonostante la maggioranza ottenuta dal Bandinelli, il punto nodale della questione sia l'eccezionalità e il carattere di suprema istanza che ormai definisce la figura del pontefice romano, cui soggiace, abbiamo visto la pregnanza canonistica dell'espressione della lettera di Alessandro ai bolognesi, tutto il resto del clero e della Chiesa, non l'imperatore, perché egli non ricorda assolutamente né la rogatoria dei cardinali favorevoli ad Alessandro, né quella dei cardinali favorevoli a Vittorio, nella lettera di convocazione al concilio inviata ai due contendenti, al re d'Inghilterra e ai vescovi tedeschi. La convocazione del concilio è effettivamente un'iniziativa autonoma. Possiamo chiederci perché. La risposta tradizionale è che Federico si arrogò questo diritto approfittando della circostanza che lo scisma all'interno della Chiesa lo poteva rendere arbitro della Chiesa stessa, come non aveva saputo esserlo Lotario al tempo dello scisma anacletiano-innocenziano. Non penso di negare che questo elemento sia entrato nella decisione dell'imperatore, ma penso anche che si debba rimeditare il testo di Raedino, 4.64. Fridericus ancipiti malo novi scismatis per motus, audiens itaque utrumque electum in episcopatus ordinem consecratum, alterum ab altero excommunicationis sententia condemnatum, sine iudicio ecclesiae controversiam terminari posse non putari. Federico non poteva, senza dichiararsi apertamente a favore di una delle parti, richiamarsi all'appello di questo o di quel gruppo, pena il perpetuarsi dello scisma, che non era nel suo interesse, come tutti riconoscono. Federico non poteva nemmeno, come aveva fatto Lotario richiamandosi all'appello di Innocenziani e di Anacletiani, ma avendo già apertamente deciso a favore di Innocenzo, giustificare la convocazione di un concilio motivandola con le istanze di Alessandrini e Vittorini, attesa la circostanza che, essendosi scomunicati a vicenda e volendo e dovendo egli ritenere la questione aperta, essa sarebbe potuta restare tale solo prescindendo dalle richieste dei due gruppi. Anche ammesso che l'atteggiamento di Federico fosse esclusivamente o prevalentemente dettato da ragioni politiche e non procedurali, si deve riconoscere che in questo caso almeno difficoltà politiche e difficoltà procedurali coincidevano e dovevano trovare uno sbocco coerente. Tanto più che le stesse parti in causa avevano dato, come è noto, della vicenda elettorale una versione che non solo non era identica, ma non era la più adatta a fornire degli appigli, testimoniando di due elaborazioni dottrinarie diverse in fatto di elezioni. Come, analizzando adesso i racconti forniti dalle due parti, possiamo comprendere meglio, dopo le puntualizzazioni, circa gli sviluppi istituzionali e i nodi procedurali che erano maturati negli anni immediatamente precedenti e contemporanei allo scoppio dello scisma. Dal racconto di parte alessandrina si ricavano questi elementi procedurali. Dopo la tractatio, preminente appare il fatto quantitativo della elezio, non ancora nel senso che avrebbe avuto vent'anni dopo, nella licet debitanda, di una maggioranza di due terzi o di poco inferiore, ma per la cancellazione automatica che il persistere di una scelta diversa produce rispetto al collegio elettorale di coloro che sono una minoranza. Mi pare difficile intendere diversamente le parole di Alessandro. Si potrebbe dire che la lezione di Alessandro sia rappresentata come concorde ed unanime, poiché Ottaviano, Giovanni e Guido, che non vi avevano aderito, non sono una minor pars, perché questa espressione non compare, ma sono degli esclusi. Tres falsi fratres qui a nobis exierunt, sed non fuerunt de nobis, non appartenevano al gruppo già prima di staccarsene. Non fuerunt de nobis. L'affermazione di Alessandro si colloca a metà tra il criterio quantitativo, che troverà esplicitazione nella licet de vitanda, e quello unanimistico, che ha ancora molta presa nella presentazione pubblicistica di parte alessandrina, ma altresì nelle obiezioni polemiche di parte vittorina. Per dire che nella ricerca di una definizione giuridica dei torti e delle ragioni dello scisma del 1159 finiscono col dissolversi gli stessi presupposti della Saniolo della Maior Pars, fatto che spiega altresì la dicotomia che si produce circa il valore da attribuire alla stessa immantatio, una questione famosa. Per Alessandro, più che l'assensus del clero e del popolo, pur riconosciuto nella ricostruzione degli eventi della elezione, senza specifico rinvio però a testi canonistici, più che la stessa consecratio, o meglio munus consecrationis, perché questa è l'espressione di Alessandro, che si compie sicut in romana ecclesia moris est, è determinante l'electio. La violenza con la quale, secondo la versione alessandrina, si arriva all'immantatio da parte dei fautori di Ottaviano, la stessa circostanza narrata di un errore compiuto nel far indossare il manto a Ottaviano, sminuiscono e sviliscono sia il valore costitutivo sia il valore dichiarativo della immantatio in relazione alla validità delle elezioni. Come già nella circostanza del decreto del 1059, la specifica vicenda storica delle elezioni di Alessandro III avrebbe avuto, a maggiore distanza di anni, una importanza decisiva per la formulazione di un nuovo sistema garantistico dell'elezione pontificia previsto appunto dal licet d'Italia. Altro il discorso nella ricostruzione dei fautori di Vittorio IV. Qui i termini stessi appaiono più consentanei con la tradizione canonica. Non è solo la tractatio, sulla cui funzione non v'erano dubbi ovviamente nemmeno da parte degli alessandrini, ma anche il rinvio implicito, ma facilmente individuabile, alla decretale di Leone I, cioè l'Electio Fratrum Nostrorum Episcoporum Presbiterorum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalium, senza distinzione quindi di gerarchia all'interno del cardinalato, la Petitio Cleri, l'Assensus Populi e quello Senatori e Dignitatis in Super Honoratorum Capitaneorum, poi la Consecratio e la Plenitudo Officii. Siamo nella dimensione della più tradizionale analogia con l'elezione del vescovo o dell'arcivescovo, come fa capire anche l'inserimento di quel plenitudo officii che era solitamente riferito non al Papa, ma al conferimento del pallium al metropolita. Può allora stupire che in questo contesto di orientamento dottrinale procedurale una parte rifiutasse ogni forma di confirmatio e l'altra, essendo contestata l'elezione ed essendo contestata la stessa immantatio che manteneva il valore dichiarativo di grande rilievo, dovesse addirittura esigerla, è la logica stessa di queste procedure che porta a una posizione diversa. Ancora una volta torniamo alle fonti di questa fase di apertura dello scisma. Abbiamo riferito più in alto il giudizio del Benson circa le debolezze di ogni abbozzo di teoria protoconciliare, a proposito dello scisma tra Alessandro e Vittorio. Ancora il Benson afferma che Victor's supporters regarded the judgment and the favorable decision by the Council of Pavia as the appropriate confirmation, e rimanda a un passo di Raevino e alla cosiddetta enciclica Imperatoris de Decretis Concilii del 16 febbraio 1160. Al qual proposito vorrei osservare che, a parte le affermazioni ancora più decise circa il valore della confirmatio che si incontrano nella cosiddetta enciclica Concilii della fine di febbraio, la procedura della confirmatio ci sembra essere alquanto banalizzata dalla osservazione circa la sua adozione da parte dei fautori vittori. L'esito, per così dire, politico della confirmatio è nello stesso tempo anche l'unico esito costituzionale di tutta l'impostazione procedurale su cui si reggeva la legittimità del Concilio di Pavia. Solo infatti presupponendo che nessuno dei due papi eletti avesse raggiunto quella pienezza di giurisdizione in un sistema analogico con quello che si applicava, come abbiamo visto, ai vescovi, si poteva e si doveva invocare la confirmatio. Questo è il punto. Formalmente la confirmatio non può essere presentata, come ci sembra sia stato fatto, come una ruserie dei fautori di Vittore, solo perché dagli atti, cosiddetti atti del Concilio Pavese, quella confirmatio sarebbe stata attribuita ad Ottaviano. La verità è che per Alessandro nessuna confirmatio poteva e doveva essere pronunciata da un qualsiasi concilio circa l'elezione di un papa. Il rifiuto era, per così dire, pre-politico, perché proceduralmente alternativo, in opposizione al sistema cui si richiamava tutta una coerente dottrina canonistica del tempo e che era quella di Vittorio. Come infatti non accorgersi che accettando la chiave interpretativa fornita generalmente dagli storici circa il carattere prevalentemente politico della procedura della confirmatio, si finirebbe con l'annoverare personaggi come Ghero e come moltissimi altri tra i fautori di Vittorio IV, quando essi mai lo furono. E del resto, un dato oggettivo e non rilevato, almeno ci sembra, da tutti gli studiosi che della questione hanno tentato un approccio canonistico, è quello che la coincidenza della linea politica di Federico con una precisa linea canonistica traspare dalla stessa insistenza con la quale in documenti ufficiali dell'imperatore del periodo si dà il massimo rilievo alla confirmatio del Papa Vittorio. Quella procedura assume, talora, nel contenzioso europeo che si apre con lo scisma del 1159, addirittura come una funzione di garanzia per la stessa legittimità degli atti imperiali destinati ad enti ecclesiastici. Non penso soltanto al diploma del febbraio 1160, diploma 299, per un monastero sul monte Bosau, o nell'altro del marzo dello stesso anno per la chiesa di Mantova, diploma 309. Dove la confirmatio di Papa Vittore è addirittura ricordata nella datatio come unico elemento cronico da mettere in relazione con il Papa. Non solo il 15 febbraio 1160 a Eberardo di Salisburgo, ovviamente, si ricorda che solo Vittore era stato confermato in patrem spiritualem et universalem pontificem, ma ancora nel maggio del 1162, scrivendo Federico all'arcivescovo Eraclio di Lione e ai suoi suffragani, si stabilisce una significativa equazione tra l'Unitas Ecclesiae e la confirmatio di Papa Vittore, diploma 365. Una elezio che non abbia avuto la confirmatio non può in alcun modo costituire un argomento di discussione. Anche negli atti che si riferiscono a incontri e a scambi di idee con Luigi VII di Francia, l'unico negozio è quello di Vittore, magari perché gli si ripeta quella confirmatio che aveva avuto a Pavia. Non è a ben guardare un escamotage, perché comunque la pregiudiziale della confirmatio, ancorché si dovesse ridiscutere del negozio Domini Pape Victoris, escludeva automaticamente Alessandro. La confirmatio assume oggettivamente un significato ecclesiologico che trascende la stessa vicenda personale di Ottaviano. Al di là delle eventuali illusioni che l'imperatore poteva o non poteva crearsi circa l'esito dell'atteggiamento da lui assunto di fronte allo scisma del 1159, restava che Vittore aveva accettato la confirmatio di fronte a un concilio, da parte di un concilio. Tale era il carattere distintivo della confirmatio, anche dopo la morte di Vittore, come si evince da un diploma del 2 giugno 1165 inviato ai grandi della Chiesa e del laicato per comunicare l'elezione e la confirmatio di Pasquale III. Il pontificato di Vittore ha un senso perché tutte le vicende relative alla Chiesa di Federico I, cioè tutte le vicende relative alla Chiesa che Federico I ha affrontato, si sono svolte post elezione e confirmazione beate memorie Pape Victoris, diploma 481. Nessuno pensa di negare tutte le implicanze politiche, e cioè di perdurante, preponderante inserimento del sovrano nell'atto fondamentale del sistema costituzionale della Chiesa, come abbiamo peraltro richiamato noi stessi. Ma nessuno può e deve dimenticare che la difesa offerta dall'atteggiamento di Federico I di una determinata procedura, protoconciliarismo a parte, si risolve come estremo tentativo di annullare la decisa linea di tendenza corporativa su cui si fonderà una nuova Chiesa. Non penso di riprendere la discussione del Ciodorov circa l'esattezza dei tagli cronologici della storia istituzionale della Chiesa medievale, cari a Rudolf Sohn, ma mi sembra veramente indiscutibile che lo scisma del 1159 si ponga come l'elemento interpretativo finale di un travaglio istituzionale che si era iniziato intorno alla metà del secolo XI. Probabilmente, come io, e lo dico con assoluta modestia, ho sempre creduto, con fini e obiettivi forse limitati, probabilmente non chiari, nemmeno gli stessi promotori, ma sicuramente molto diversi da quelli che la problematica canonistica del secolo XII lasciava inequivocabilmente intravedere. E questo ci pare il senso del dialogus sul pontificato romano, cui si è spesso accennato, sia o non sia esso opera di Raerini. Se guardiamo adesso per la ricerca di qualche novità di argomentazione, dopo quanto si è detto, si resta alquanto perplessi. Poiché, come è noto, e con una anticipazione di atteggiamento che si ritroverà nel De Vera Pace, dopo l'esposizione delle argomentazioni degli uni e degli altri, l'autore, forse Raerino, non offre una soluzione, ma stigmatizza i prelati ecclesie qui locum tenent discipulorum, perché sembrano non curarsi della soluzione dello stesso scisma. Dal che si potrebbe desumere che, pur dopo le inutili esperienze dei concili di Pavia e di Saint-Jean di Lausanne, e forse in vista di quello che sarebbe stato il concilio che si preannunciava questa volta da parte di Alessandro, rimando al recente lavoro del Sommerville per il concilio di Tours del 1163, si potrebbe evincere, dicevo, che l'autore del Dialogus credesse nella necessità ecclesiologica di un concilio, ma temesse una soluzione politica del concilio stesso. Una soluzione, cioè, in cui i rapporti tra uno dei due contendenti con i vertici politici dei due principali regni d'Europa si rivelassero più importanti e decisivi dei dibattiti carlistici. Un timore che poteva lasciare, come si legge nella conclusione del Dialogus, perplessi molti ecclesiastici e laici, non nullo sesse qui pro utraque parte suspensam aduc teneant sententia. Perché perplessi? Perché a giudizio dell'autore del Dialogus le argomentazioni dei due contendenti si pareggiano quanto a peso specifico nella questione. E questo è interessante. Senza pensare di elencare tutte le autorità che si adotte, appare evidente che il convenuto Alessandro, nella fictio del Dialogus e in maniera più formalistica di quanto non fosse avvenuto nella Dissertatio Synodalis, Alessandro è il convenuto e Vittore è l'attore. Bene, dico, senza pensare di ricordare tutte le autoritates canoniche, l'autore del Dialogus si rifà esplicitamente a quelle che noi abbiamo già incontrato in Graziano o nei suoi commentatori. Autoritates, quelle grazianee, che sono anche maggiori in numero di quelle che la cura del Bemer ha potuto rintracciare per l'edizione dei monumenti. Ritroviamo così la decretale di Leone I, più volte citata nella formula non ampliata da Ruffino per quello che riguarda la confirmatio. Altro segno che di questa, trattandosi di invocare un procedimento per analogia nei riguardi del sommo pontefice, o presunto tale, era inopportuno parlare. Ritroviamo l'esclusione dall'assensus honoratorum la persona dell'imperatore, con il richiamo testuale alla distinzio 63esima, capitolo 34, e all'immediatamente successivo dictum che vanifica i privilegi di Adriano e di Ottone, di cui all'apertura del concilio di Pavia, secondo Raevino, Federico avrebbe fatto menzione per giustificare la propria iniziativa, pur in una volontaria rinunzia a far prevalere sulla volontà e la decisione degli ecclesiastici convocati a Pavia la propria. Ma troviamo soprattutto, e Wilbermer non ebbe da vedersene nella edizione, un testuale ricordo, sempre da parte del convenuto Alessandro, della causa terza, questo prima, capitolo sesto, da noi già menzionato, a proposito della exceptio spoli e dei primi commenti al decreto, con una singolare aggiunta che a mio avviso ribadisce ad un tempo l'ingiudicabilità del Papa e nello stesso tempo la situazione di stallo giuridico in caso di scisma. Scio e Alessandro a parlare, iustum esse in aliis casibus, ut sine iudicis autoritate distitutus per iudicem restituatio, sed ec regula exceptionem admittit, quando apostolica sedes per violentiam occupatum, quo caso iudex non inventur, cuius officio ille apostaticus possit excludi, e sin qui è il testo di Graziano, et iuste destitutus restitui. Quelle iuste destitutus restitui è molto eloquente. Non solo non c'è autorità giudiziaria o forza militare che possa porsi al di sopra di chi occupi, sia pur con la violenza, la sede apostolica, ma non c'è nessuna forza che possa comunque restituire il Papa ingiustamente cacciato dalla sede apostolica. Quasi a dire che nessuna forza di sovrano, ormai, secondo la parte alessandrina, avrebbe potuto imporre a uno dei due contendenti di abbandonare Roma, chiunque l'avesse occupata. Graziano, infatti, proprio nel dictum che l'autore del Dialogus conosceva benissimo, come abbiamo testé dimostrato, aveva affermato che si episcopi a sedibus quas quocomodo tenere mi debantur, non per iudicem, sed violentere iecti fuerint, post iectionem restituendi sunt, ante regularem ad synodum vocazione. Ora, poiché la eiectio, non importa di chi, non sarebbe potuta avvenire se non con la forza, non solo l'eiectus in tale maniera sarebbe dovuto ritornare a Roma, ma sarebbe stato inevitabile un concilio. E chi ne avrebbe legittimato la convocazione? È innegabile che il Dialogus rispecchi in maniera molto precisa il senso tutto interno al sistema ecclesiastico della ecclesiologia alessandrina, che attinge a Graziano certamente, ma che anche in maniera indipendente proietta la posizione del pontefice romano su di un piano di assoluta inattingibilità. Non devono ingannare le dichiarazioni del convenuto Alessandro che afferma: et quamquam prima sedes non sita quocam a quoquam iudicanda, tamen co episcopos meos qui sedes patriarcales optinent potius adjudicandum admit. È un'ipotesi per assurdo, atta a dimostrare che i sovrani laici, gli imperatori, secondo una decretale di Niccolò I, non possono partecipare ai sinodi se non per questioni di fede, il che non era nella fattispecie. Perlomeno non lo era nel 1162-63, quando veniva scritto il Dialogus, e secondo la versione fornita dagli alessandrini. anche se proprio attraverso la testimonianza del dialogus sembra possibile individuare un'accettazione della equivalenza tra scisma ed eresia, che era stata ventilata da Magister Rufinus. Ma tant'era, proprio Magister Rufinus, come ha indicato una ventina di anni fa il Moynihan, commentando il famoso frammento attribuito a Bonifazio e ritenuto opera di Umberto e Silva Candida, che il Magister bolognese ritrovava nella Distinzio 40 capo 6, «Scendum est quod non continuo pro eresi papa damnandus est, sed si secundo et terzo, eccetera, eccetera». C'è inoltre da notare che dalla testimonianza del dialogus risulta completamente rovesciato il rapporto cardinali-patriarchi, che è, come noto ed è stato anche di recente ricordato dal Fois, da Pier Damiani in poi, lo abbiamo detto anche prima, era stato concepito con il riconoscimento della netta superiorità dei primi, dei cardinali. I coepiscopi del convenuto Alessandro sono invece i patriarchi di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Ora è indubbio che in questo richiamo c'è oltretutto, come testimonia Ghero, l'assenso che in qualche modo venne ad Alessandro dall'Oriente. C'è l'interesse politico di Bisanzio a inserirsi nella questione dello scisma, come ha ben mostrato Paolo Lamma. In una presentazione, peraltro, dell'atteggiamento di Federico e di Ghero, che con il rimpianto di un'affettuosa amicizia perduta, io non mi sento di condividere. Ma c'è anche con il rifiuto abbastanza esplicito di quel livellamento del corpo cardinalizio che era stata una costante della pubblicistica di parte imperiale e che nel dialogus si accompagna da parte vittorina con l'assunzione del clero cardinale e degli altri religiosi viri in tutto l'inseparabile processo dell'elezio, che anche in Graziano era stato accolto come si è visto, c'è anche, dicevo, la testimonianza di una tendenza a rafforzare sempre di più l'aspetto maggioritario degli elettori, come si evince dal ricordo di un canone del Concilio di Nicea I, citato in maniera quanto mai adattata alla circostanza, sempre attraverso Graziano. Il canone niceno riguardava ovviamente il caso dell'elezione di un vescovo che non è valida se avvenuta contro la volontà del metropolita, ma può considerarsi valida se contrastata da due o tre elettori. Due o tre di numero, come due o tre erano stati i cardinali favorevoli a Ottaviano, se questo avviene per ragioni di inimicizia personale. Ora, a parte ogni valutazione su questa persistente e inevitabile applicazione del principio analogico per quanto concerne l'elezio, non si può non rilevare che in questo modo il convenuto Alessandro può avere buon gioco nel recuperare, per così dire, contro l'avversario, il ruolo primario dei cardinali vescovi per la consecrazione. Mentre, sempre nella stessa linea, si oppone a ogni confusione tra lo ius eligendi, che è dei cardinali, e le funzioni accessorie, dei cardinali tutti questa volta, e le funzioni accessorie dell'altro clero e del popolo. Ma così facendo, io credo di poter dire, il convenuto Alessandro non si muove tanto sulla linea del decreto del 1059, come è apparso a taluni, ma introduce nel meccanismo formale della funzione dei cardinali un elemento assolutamente estraneo alla tradizione del decreto, quello del 59, quello appunto numerico o maggioritario, che automaticamente assume le vesti di una legalità tradizionale. Qual è allora il risultato che abbiamo raggiunto, se lo abbiamo raggiunto, in questa analisi delle argomentazioni adotte dalla parte alessandrina nella fictio di un processo scritto da persona che, pur proclamandosi al di sopra delle parti, non era riuscito a convincersi, non dirò degli argomenti di una delle parti, ma degli argomenti che egli stesso conosceva benissimo, anche se sapeva altrettanto bene che si inserivano nella difesa di una sola delle due. Evidentemente non ne era convinto, perché restava l'ostacolo del rifiuto a partecipare al concilio. Un rifiuto che alla data di composizione del dialogus la parte alessandrina manifestamente non era riuscita ad argomentare con la stessa abilità con cui aveva articolato le altre risposte, a tal segno che nel dialogus, per fittizio che esso debba essere ritenuto, pur con singolari coincidenze, come si è visto, a tal segno si diceva che nel dialogus il convenuto Alessandro critica l'imperatore come mediatore ingiusto, perché ha pronunciato un giudizio in assenza di una delle parti, in contumacia. Argomento debolissimo. Se non avesse per la parte alessandrina solo il valore di una polemica, da che mai Papa Alessandro avrebbe preso in considerazione la possibilità di recarsi a quel concilio? Ceteris paribus, quello di un impegno generale del clero cattolico, come, ripetiamo, si legge nella chiusa del dialogus, rimane l'unico mezzo per uscire dallo stallo. E non può non essere che un impegno conciliare, tale magari che rinnovi da capo tutto il processo, e che non è detto debba avere una presenza così preponderante o ingombrante come quella che gli alessandrini ritenevano avesse avuto l'imperatore. Dero non era il solo atleta, non era l'unica anima pia, per riprendere un'espressione del compianto Paolo Lamma, che si illudesse. E non basta, non si può parlare di illusioni e di ingenuità per Ghero, di tendenziosità per Raedino, di megalomania e mancanza del senso delle cose per Federico I, e poi però, e in questo caso giustamente, constatare il crescente dislivello di qualità e di modernità culturale, o meglio culturale giuridico-istituzionale, tra il mondo imperiale e quello curiale romano. È inevitabilmente contraddittorio, e proprio perciò, come dicevo al principio, dobbiamo evitare di impostare le questioni in tal modo, se non vogliamo ridurre tutto ad una mera questione di astuzia o di forza politico-militare, le quali cose hanno sempre bisogno di una ipotesi culturale, di una struttura giuridica istituzionale che siano esattamente corrispondenti almeno ai propri fini, nei tempi culturali esatti. A mio avviso, lo ripeto, a Federico I lo scisma fu imposto da Alessandro III, o se volete meglio ancora, dagli stessi presupposti di Alessandro III, per così dire, proprio per far scoppiare tutte le contraddizioni interne a un sistema che, dopo quanto si è detto, non potremmo certo chiamare illegittimo, cioè privo di tradizioni istituzionali, culturali e di precedenti storici plurisecolari. Un sistema di cui, dal canto loro, non credo di poter affermare che Federico e i suoi collaboratori non avessero avuto piena consapevolezza e capacità attuativa. L'ideologia che aveva determinato tutta la serie di incongruenze istituzionali era stata proprio quella che, nella sua supposta e alquanto ridicolizzata ingenuità, Ghero non aveva accettato, restando fedele alla riforma e all'impero e rifiutando il calixtinum. Era stata quella che appunto il calixtinum e l'innocenzianum e certe formule parevano ribadire, e cioè il supposto parallelismo equipollente ma unitario di regnum e sacerdotium come ipotesi di direzione di una società. Questo parallelismo era risultato impossibile molto tempo prima del 1159, almeno da quando, nel rifiutare le conseguenze troppo onerose del privilegium del 1111, una parte almeno della Chiesa di Roma si era chiesta come, al di là della lettera delle tradizioni, queste dovessero essere razionalmente intese e composte per mantenere tutto e tutto cambiare. La ricerca di una unità razionalizzata sui presupposti impliciti nel rifiutum del privilegium oggettivamente compiuto da Pasquale II era il vero inizio dello scisma. A ben guardare, e sempre più recenti lavori pubblicati e da pubblicare lo dimostrano e lo dimostreranno, la disinvoltura di Enrico V e l'ambiguità, ma chissà, di Pasquale II, così esclusivamente politiche, ebbero, per le successive implicanze istituzionali del rapporto tra papato e impero, un'importanza decisiva nel presentare ai futuri e non immediati successori Federico e Alessandro la precarietà compromissoria che si nascondeva dietro quella ideologia unitaria di regnum e sacerdotium. Lo scisma era l'unica risposta che a quel compromesso i due grandi protagonisti del secolo XII avrebbero rispettivamente potuto subire e potuto imporre. E forse per questo la storia non è mai identica alla politica. Grazie. Di Dio anni fa senza volerlo, sono in tradizione manoscritta autonoma, cioè su Rexit, Indievus Nostris, Nefanda, Erenis, eccetera, è in tradizione manoscritta autonoma come una specie di ammonimento, non so come chiamarlo, di ammonimento che viene mandato in varie direzioni di Francia e che vengono copiati e che viene copiato questo pezzo in lì dove, come voi sapete, non ho davvero, mi vergogno di doverlo dire, laddove c'è uno spazio bianco c'è un pezzo come questo. E quindi è un elemento indiscutibilmente testimoniale a favore di questa preoccupazione del clero francese circa l'avanzata dell'eresia e quindi circa il danno e il pericolo, la pericolosità dello scisma. Prego. Einmal die Begründung Alexanders III. Zum Konzil nicht kommen zu können. Ist sie nicht parallel zu setzen zum Ereignis von 1062 mit Alexander II.? Es gibt ja diesen Brief, den Walter Hussmann gefunden hat, den Brief der Kardinäle an den Kaiser, der durch zwei Kardinäle nach Pavia geschickt wurde. Friedrich von Gross hat die beiden Kardinäle nicht empfangen. Das heißt in dem Brief, dass der Papst, wenn er einmal gewählt ist, sich nicht einem Gericht, ein Konzil war ja ein Gericht, stellen kann, es sei denn, er beruft das Gericht ein und leitet es. Er leitet es. Das ist der Kernpunkt. Und ist jetzt nicht das Zweite, das ist die zweite Frage, dass Friedrich Barbarossa gezwungen war, eine staatliche Begründung für den staatlichen Eigenwert zu geben, ausgelöst durch das Ereignis von Besançon, dass er aus der Sacrum Imperium, dass er darauf bestehen musste, dass die zwei Gewalten wären bestehen blieb, dass er aus diesem Grunde gezwungen war, das Konzil anzurufen, das erste. Dunque, sì. Spero perché parlo un pochino in fretta. Dunque, la prima domanda è legata al problema della convocazione del concilio e la seconda sì. Al fatto che dopo il concilio di Besançon sì. La posizione che gli aveva preso sì. Egli doveva in qualche modo mostrare che era nel possesso dei due poteri e che quindi, das Problem des Entsagrantismus. Sì. E quindi di una del fatto che altrimenti il suo potere sarebbe stato, diciamo così, sì, ma la seconda, capisco qual è la questione. La prima, dice che vuole così di essere frase, non fa via voi. Also, i cardinali hanno un brief la lettera, i cardinali hanno mandato una lettera al Barbarossa. Sì. Quali cardinali? Di quale parte? Di Alessandro III. Sì, di Alessandro III. In dem Brief steht drin, dass der Papst nicht kommen könne zum Konzil, weil er nicht von einem, wenn er einmal gewählt ist, Papst sei und ein Papst nicht von einem Konzil berichtet werden che, könne. Nella quale viene detto che egli, Alessandro III, è il Papa e che un Papa quindi non può comparire davanti a un concilio che non sia stato convocato da lui. Di, sì. Ma io questo però... No, grazie. Allora, per la prima questione, certamente i cardinali fautori di Alessandro III hanno scritto immediatamente all'imperatore e hanno dichiarato che il Papa eletto valido era Alessandro III. Hanno anche detto, quindi non poteva essere sottoposto a un giudizio, però hanno chiesto a Federico di intervenire con quelle procedure che erano proprie della maestà imperiale. È molto vago. Io non dico che con questo i cardinali fautori di Alessandro III avessero chiesto la convocazione del Concilio, questo certamente no. Però è un fatto che mentre noi non abbiamo se non la risposta di Alessandro, quella che è rimandata, che è chiamata come risposta di Alessandro a Federico, e non abbiamo nessuna richiesta da parte di Alessandro di una difesa della propria elezione, c'è la richiesta di una difesa della elezione di Alessandro da parte dei cardinali. Ora, questo per me è importante. Cioè, i cardinali fautori di Alessandro III sono d'accordo che il loro è l'unico canonicamente valido di padre, però chiedono all'imperatore che compia il suo ufficio di defenso, no? Da parte di Alessandro III una richiesta del genere non c'è, assolutamente. Quindi io vedrei, una leggera differenza di posizione tra l'atteggiamento assolutamente negativo, cioè di non rilevanza per l'imperatore da parte di Alessandro III, e invece di permanente tentativo di coinvolgere a proprio favore ancora l'imperatore. È quello che avevo detto nella prima parte. Lo scisma è per molti ancora un fatto che può riguardare impero e papato. Per Alessandro III a me non sembra che sia una cosa del genere. Per Alessandro III è un fatto interno alla Chiesa e non può che essere interno alla Chiesa. E questo spiega poi tutta la serie. Questo per no. Il... il professor Cavigani sagt, dass der Brief, von dem Sie sprechen, ist ein Brief der Kardinäle, aber nicht des Papstes. Und hat einen Unterschied gemacht zwischen die Stellung des Papstes selbst, der nichts gefragt hat, und die Stellung der Kardinäle, die vom Kaiser das verlangen, das heißt, dass er die Funktion des Advocatus, des Defensors Ecclesiae macht. Nel senso tradizionale. Im traditionalen Sinne des Wortes. Das heißt, es sind zwei verschiedene Positionen. Die Stellung des Papstes, die absolut streng und sozusagen absolut unabhängig vom Kaiser bleibt. Und eine Stellung der Kardinäle, die einigermaßen bewilligend von dem Kaiser das erwünschen, das heißt, dass er als Kaiser die Funktion und die Pflicht eines Defensor Ecclesiae als Kaiser machen würde. Dunque, la seconda domanda era dopo Besançon. Ma io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che che dopo l'episodio di Besançon Federico volesse riaffermare la propria assoluta autonomia e indipendenza per quanto concerneva la derivazione, cioè quello che i giuristi chiamano il processo legittimo di derivazione del potere per l'impero. Del resto, proprio quella risposta che io ho dato, cioè che Federico dà e che io ho ricordato ai vescovi italiani, voi non volete prestare l'ominium perché allora pretendete i regali, dimostra che Federico, e l'ho anche detto, non ha mai avuto dubbi sulla propria assoluta indipendenza per quello che concerneva il potere temporale. Sarei molto più perplesso sul fatto che Federico abbia voluto, anche nel momento dello scisma, esercitare in pieno tutti i diritti che una certa tradizione, lasciamo stare se fondata su documenti autentici o meno, gli dava per quello che concerneva l'elezione del Papa. Infatti Raevino ci ricorda che, rivolgendosi al Concilio di Pavia, Federico avrebbe detto: per quanto sulla base dei privilegi che Giustiniano, Carlo, Ottone hanno ottenuto, io abbia il diritto di convocare un sinodo, tuttavia io non voglio esercitare questo diritto, mi rimetto alla vostra decisione. Ora, questo che cosa dimostra? Che lui non ritenesse in linea giuridica di avere questo diritto, non lo affermo, non penso di dirlo. Dico solo che forse, non Federico lui come persona, ma il suo entourage, proprio perché avvertito delle stesse tesi canonistiche degli avversari, abbia preferito raggiungere quel giudizio sui due eletti con il massimo di oggettività. Più volte ripete: mi rimetto al vostro giudizio. Quando scrive a Rolando e ai suoi fautori, dichiara esplicitamente che questo concilio avverrà senza interferenza alcuna da parte dell'autorità laica. Quindi che egli nel fondo ritenesse di avere tutti i diritti di intervenire anche in questa questione, non lo nego, ma dico che non è una delle sue armi ideologiche più forti. La sua arma ideologica più forte, e credo che questo sia difficile contestarlo, è mostrare che di fronte al giudizio della Chiesa uno dei due contendenti non vuole presentarsi. Also, wenn ich richtig verstanden habe, von Wahlspiel ist aber außer eine traditionelle Argumentation gegenüber dem Papst eine völlig fortschrittliche Argumentation. Dann würde da auch einer der wesentlichen Unterschiede liegen. Ancora qualche problema? Prego. Nein, eine gute Rede ist eine Fehler, von der Rede. I giuristi di economia facendo alcune osservazioni marginali e la loro margine discute la sera, la loro brevità. Quindi, prima di tutto, l'osservazione che viene fuori dalle indicazioni di Capitani, cioè il fatto che il complesso dei due settori, cioè degli studiosi del decreto, vanno abbastanza più avanti delle posizioni che viene assumendo Graziano. Graziano ha fatto una raccolta, una concordia di discordanze in canoni, che in realtà è una scelta e che impone questa raccolta su tutte le altre raccolte pur recenti della Repubblica. Quindi la sua elaborazione è già un'elaborazione, diciamo, di sviluppo del pensiero canonico, sicuramente in senso filopapale, nel senso del sviluppo della cefalia, del potere della del Papa nella Chiesa. Beh, ecco che Rufino, Simone e Pietro e Giulio vanno ancora più avanti. Il che comporterebbe una forse indicazione circa la opportunità di ricordare uno degli ultimi messaggi che si dette il povero Vettunani, cioè di retrodatare piuttosto, se mai, il decreto di Graziano, perché i tempi sono molto stretti. Cioè, questa evoluzione, aggiungo che un'evoluzione di questo tipo non parrebbe notarsi, per quanto sappiamo, e ne sappiamo poco, a livello della dottrina civile. E naturalmente il ruolo un'osservazione, è evidente, cioè si capisce bene come il diritto canonico nella elaborazione grazianea sia una sorta di bomba, sia quel progetto nuovo, sia quella elaborazione culturale nuova, che dà così decisa forza al Papa, no? Per cui adesso si può parlare, no? In uno dei canoni, non mi ricordo quale, che l'unico rappresentante della Chiesa all'esterno è sostanzialmente solo e sempre il Papa. E è un evidente sviluppo di questo tipo di dottrina. E naturalmente con la connessa decadenza degli istituti germanistici, per esempio quella del Vocatus Ecclesiae, che non d'altro si può giustificare se non col fatto che esiste una prova de pugna, un modo di riprovazione mediante il duello giudiziario, che viene completamente scavalcato dal sistema liberale e dal sistema del processo, per come si suol dire, romano canonico. Vorrei fare un'ultima osservazione. A me pare che il professor Capitani abbia collocato, per dir così, abbia mostrato un Federico I, un Barbarossa, in qualche modo tentando più o meno correttamente di mediare tra le due parti della Chiesa. E probabilmente questa è una posizione che secondo me lui assume anche negli anni fra il 56 e il 57, nella durissima questione del problema del regalia. Questo naturalmente ne parleremo quando sentiremo la signorina Pesoli o il professor Presti. Il problema delicatissimo delle regalie e susseguente a quell'autentica rivoluzione comunale che comporta il fatto che il sistema giurisdizionale è completamente rovesciato, perché i grandi denari della provincia, del comitato, devono, per dir così, accedere al tribunale comunale, che è un tribunale inferiore. Ma l'osservazione che voglio fare definitiva per aver finito è questa. Vediamo dunque i giuristi canonisti che sono, diciamo, come notissimo per la notizia, dalla parte del Papa, sono giuristi papisti, anzi, sono la punta di diamante, noto, notissimo. Il Capitani l'ha sviluppato e l'ha benissimo. E contemporaneamente siamo nel 1159. Anni precedenti, comunque il movimento giuristico, giustistico, benissimo. E i giuristi civilisti nel 1958 sarebbero stati filo imperialisti. È chiaro che c'è una contraddizione che non si vede. Cioè, non è vero. I giuristi colonialisti non sono filo imperialisti perché non possono esserlo. Perché dico, evidentemente è un'affermazione che discuteremo se vedrete in altri giorni, perché gli uni e gli altri partecipano di un nuovo nesso comunale e perché è assolutamente impensabile. E quello che lavorano i civilisti intorno alla curia di Sant'Ambrogio o sotto le due torri sia in rigido contrasto a quello che sta lavorando i canonisti pochi chilometri, pochi metri più là, bastanti si lavora e felici. Quindi da questo lato questa è un'occasione interessante per rivendicare una lettura sicuramente formale, direi scorretta, del ruolo dei giuristi civilisti nel 58, che secondo me invece ha un taglio dunque, la grande dieta di Roncaglia dell'11 novembre, ecco, non c'entra ovviamente con l'affermazione con la relazione finale, ma che non può comparirsi assolutamente in maniera così netta con quelle che invece sono le posizioni dei canonisti, ripeto, che operano nello stesso ambiente, nello stesso luogo e secondo le mie opinioni. Grazie. Ich möchte einen Moment eine rasche Übersetzung machen. Professor Colliva hat über die Datation von Gratian etwas gesagt. Gratian ist dem Papst günstiger und in jedem Fall für seine Argumente muss seine Datation antizipiert werden. Ja. Sì. In jedem Fall, die Fortsetzer von Gratian sind in jedem Fall Personen, die Argumente von Gratian selbst entwickelt und sozusagen vermehrt gemacht. Und in jedem Fall, das bedeutet auch noch eine Sache, das heißt, während in dem das römische Recht noch Entwicklung in Bologna hat, wird das germanische Recht wird vermindert, weil der Advocatus Ecclesiae nicht mehr so wichtig ist wie damals. Die Kirche benötigt nicht mehr, ein Advocatus Ecclesiae zu haben. Aber am Ende hat Professor Colliva eine sehr wichtige Angabe gegeben. Das heißt, die Professoren von Bologna, Kanonisten und Zivilisten, können nicht so heftig im Gegenteil zu sein, wie es scheint. Wenn die Kanonisten so gültig dem Papst waren, konnten die Zivilisten nicht so gültig für den Kaiser sein. Beide lebten in einem Raum von wenigen Meter entfernt und sie können daher nicht im Gegenteil sein. Und das ist natürlich etwas, das wir in den nächsten Tagen diskutieren können. Dunque, d'accordo, d'accordo soprattutto sulla fine. Tu hai fatto molto bene a ricordare quello che hai detto e a proporre una serie di considerazioni di questa supposta sì, amicizia, non ho amicizia dei giuristi civilisti per... Io non ho, torno a ripetere, avuto tutta la possibilità di dire tutto quello che è raccolto anche nelle mie schede, ma forse nessuna cosa può essere più convincente per quello che tu hai detto, se non questa constatazione. Proprio in quell'ultima pièce pubblicistica che io ho ricordato, questo Dialogus de Pontificatus Sancti Romani Ecclesiae, scritto, se era Erino, da persona che non era, insomma, contro Federico, non diciamo che non era a favore di Alessandro, ma non era contro Federico. Il convenuto Alessandro, fra le argomentazioni che adduce, ricorda, a un certo punto, dicit enim lex, recte possidenti a defendendam possessione, e questo è chiaramente. Poi, nam vim vi repellere liquid, e questo è digesto. E ancora, si dice, tu cum armis et fustibus me et fratres nostros urbe pellere sis conatus, lege Iulia vi teneris. Beh, cosa significa tutto questo? Significa che, come quasi sempre avviene nella storia e del diritto canonico e del diritto civile, e lo dice un profano, chiedo scusa, rivolgendomi a un collega che è professionista, quello che importa non è il ricorso in sé, ma è la funzione che questo ricorso assume in un discorso molto più ampio. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che a un certo punto di crescita culturale giuridica arriviamo a vedere che le fonti che tradizionalmente noi pensiamo essere l'armamentario delle parti opposte non si presentano assolutamente così. Questi testi, in altre parole, considerati in sé, non hanno una tendenza né filo papale né filo imperiale. E il contesto specifico è il caso che devono illustrare, che fa assumere a questi testi un valore anziché un altro. Mi permetto per quello che riguarda l'aspetto canonistico e molto prima di Graziano, di ricordare che io fui non paia così in modestia, lo dico solo perché è stato riconosciuto anche da una persona alla quale noi ci inchiniamo tutti, che è il professor Furman. Io fui tra i primi a indicare il carattere niente affatto riformatore di una celebre collezione canonistica, la collezione di 74 titoli, che per moltissimi anni, decenni, era stata ritenuta proprio il programma, no? Il testo fondamentale per la riforma. Quindi, d'accordo con quello che tu hai detto, rientra proprio in uno schema mentale che io. Quanto alla datazione del decreto, questo è il compito, certo, di specialisti. Posso solo dire una cosa, certo, l'elaborazione è molto rapida, i tempi sono molto stretti, ma noi forse dovremmo dimenticarci di quello che per noi è diventato un assioma quando utilizziamo le fonti giuridiche. Non è sempre vero che il diritto nasce vecchio, qualche volta è nato in anticipo anche. Sono, credo che siamo, anche se la discussione probabilmente potrebbe continuare ancora per un pezzo, credo che abbiamo il diritto di concludere la nostra giornata. Una giornata, direi, impegnata, ricca di risultati e che ci ha posto di fronte a problemi di estremo interesse e di estrema importanza, su cui io ritengo che per varie ragioni ci porterà a ritornare sui problemi di oggi. Concludendo, io vorrei rivolgere una preghiera ai più giovani. Mi posso sbagliare perché dopo una giornata la memoria di chi non è più giovane, come non sono io appunto, può darsi che ricordi male, ma mi pare che abbiamo parlato a troppe persone con i capelli più radi o più grigi o più bianchi, mentre è nelle nostre consuetudini che a parlare di più siano i giovani. Mi auguro che domani partiate alla riscossa e riduciate al silenzio i meno giovani. E con questo augurio chiudiamo la giornata di oggi con un ringraziamento vivissimo ai due oratori, al professor Appelt per questa mattina, al professor Capitani per quest'oggi pomeriggio e un ringraziamento anche a quanti hanno partecipato alla discussione. E un ringraziamento al professor Manselli. No, esatto.